Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Magazine 24, appuntamento il sabato e la domenica con i settimanali, la rassegna stampa, ma diciamo i consigli per la lettura o anche qualche curiosità di quelle che Anita Panizza ed io troviamo sui settimanali italiani e magari anche stranieri. Allora oggi voglio cominciare con una domanda difficilissima, almeno io l'ho trovata tale: cosa vuole dire ciammengola? Spero che poi tra l'altro l'accento sia finito al posto giusto. Ho trovato questa domanda mi è stata rivolta dalle pagine di Famiglia Cristiana. Ciammengola è proprio l'attacco dell'articolo di Elisa Chiari, che ci parla di un libro curioso, il libro delle parole altrimenti smarrite. Qual è il motore di questo libro, il motivo che ha mosso questo libro? Noi quando parliamo, anche io mentre vi sto parlando ora, utilizziamo un vocabolario sostanzialmente limitato che comprende 3-4 mila parole come minimo e qualche migliaio in più se vogliamo essere un po' più forbiti. In realtà ci sono tantissime parole che non vengono più utilizzate o vengono utilizzate raramente o solo in frasi fatte, che appunto sarebbero altrimenti smarrite, altrimenti se non ci fosse questo libro di cui ci parla appunto Elisa Chiari su Famiglia Cristiana. Il libro è di Sabrina D'Alessandro e leggo appunto da questo attacco, che già con questa domanda è difficile, ma poi ve lo dico cosa vuol dire ciammengola. Dice: è nata così dalla curiosità per una parola disusata e ormai pressoché ignota, l'idea di Sabrina D'Alessandro, trentenne pubblicitaria, l'idea di istituire un ufficio della risurrezione delle parole smarrite, da cui è nata anche una pubblicazione, il libro appunto delle parole altrimenti smarrite. Non è un dizionario, non è un lavoro scientifico come un quale potrebbe fare un linguista, non lo è, perché la stessa autrice dice: io non lo faccio per lavoro, per me è un hobby. È vero che le parole sono parte integrante del lavoro di un pubblicitario, ma qui ha agito soprattutto la mia curiosità personale, la suggestione delle parole perse, senza pretesa di essere esaustivi. Quindi il mio al massimo può essere un punto di vista artistico. Allora, ciammengola però che cosa vuole dire? Vuol dire bazzecola, vuol dire cosa di poco conto. E questa parola è poi diventata una piccola scultura, perché c'è una targa di Ottone, riferisce appunto Elisa Chiari, con questa parola incisa, circondata da un presidio di soldatini quasi a difenderla dall'oblio. Non tutte le parole del libro, viene precisato, sono altrettanto smarrite, perché ci sono dei parlanti colti che adoperano ancora, magari in tono scherzoso, termini come sesquipedale, per dire una cosa colossale, oppure leccarda, che, se ricordo bene, ma speriamo di non sbagliare, è una delle parti che vengono utilizzate nei forni, nel forno, o la cucuma, oppure parole come burbanzosa, baciapile, diuturna, insomma termini un pochino desueti, si direbbe. Ce ne sono un altro paio qua, Trenta Vecchia, leggo appunto da Famiglia Cristiana, è una larva immaginaria che è stata inventata dalle balie per fare paura ai bambini, Trenta Vecchia, e guastapagnotte, che è un sostantivo detto di chi vive alle spalle di chi lavora. Insomma, un guastapagnotte, volendo un po' aggiornarlo, potrebbe essere un mangiapane a tradimento. E allora, sempre da Famiglia Cristiana, una cosa davvero curiosa questa. C'è bisogno di 10.000 insegnanti, però aspettate, non in Italia, in Francia. L'istruzione nazionale recluta 10.000 persone nel corso del 2011. Chi è interessato, scrive Giulia Cerqueti, ancora su Famiglia Cristiana, si affretti, perché per iscriversi ai prossimi concorsi c'è tempo fino al 12 di luglio. Vista dall'Italia, la stessa Cerqueti lo precisa, potrebbe sembrare uno scherzo, ma in Francia è una realtà. Da un paio di settimane questo messaggio è su internet, è sui giornali, è alla radio, e la situazione in numeri è questa: 33.000 tra insegnanti e amministrativi quest'anno andranno in pensione, solo 17.000 saranno rimpiazzati, 16.000 no, e i posti saranno soppressi. Però c'è una carenza appunto di insegnanti e li stanno facendo proprio una sorta di reclutamento. La crisi, questo evidenzia anche una crisi di vocazioni tra gli insegnanti, una caduta che appunto sempre in Francia, ma forse potremmo anche estenderla al caso italiano, una caduta che risulta cominciata nel 97 e che riguarda soprattutto le materie scientifiche. Perché in Francia non si trovano più aspiranti professori, pare per le condizioni di lavoro che sono difficili e anche per la insoddisfazione remunerativa. Ci sono come stipendio inizio carriera 1584 euro, risulta che, se ricordo bene le statistiche, più alto di quello che viene assegnato all'insegnante italiano a inizio carriera, però questo non basta evidentemente ai francesi, non basta nemmeno agli statunitensi, perché, come sempre riferisce Giulia Cerqueti, negli Stati Uniti la metà degli insegnanti negli ultimi 5 anni ha preferito andare a fare un altro mestiere. Allora, questa forse l'avete riconosciuta, questa è la cornetta di Louis Armstrong, forse il jazzista più famoso in assoluto di tutti i musicisti jazz, mi perdonino gli appassionati, ma intendo dire a un livello soprattutto di popolarità diffusa, non appunto solo tra coloro che sono cultori di questo tipo di musica. Louis Armstrong lo abbiamo utilizzato per spezzare un po' queste chiacchiere che facciamo il sabato e la domenica mattina, perché è proprio dedicata a Louis Armstrong l'ultima uscita della nostra antologia sui miti del jazz. Un'antologia appunto dedicata a Louis Armstrong con dei brani famosi ma anche non così famosi, non così conosciuti, magari un pochino meno conosciuti. Questa che avete ascoltato si chiama Corn Chop Suey ed è un'incisione di Louis Armstrong e dei suoi Hot Five, il gruppo per gli appassionati non ha davvero bisogno di presentazioni. Questa incisione però vi volevo precisare che è del 1926, lo apprendo dal libretto che accompagna appunto questo CD che trovate in edicola, questo cofanetto con Il Sole 24 Ore. Tra l'altro, se volete saperne di più, c'è anche un sito dove vi potete appoggiare, www.ilsole24ore.com /, miti del jazz. Qui trovate tutte le informazioni. Magari se Pietro Lacorte, che questa mattina in regia, ci rimette un pochino ancora di questa meravigliosa cornetta di Armstrong e poi andiamo verso le informazioni sul traffico. Allora lasciamo Louis Armstrong, lasciamolo in edicola naturalmente con il cofanetto che trovate dedicato ai miti del jazz. Adesso l'ora mi sembra propizia per un caffè, magari un secondo caffè per chi si è già alzato da un po', un primo caffè per chi si sta alzando adesso. Perché vi parlo di caffè? Perché ne parla Panorama. Panorama dedica una serie di pagine nella sua sezione denominata Extra al caffè, ci sono delle informazioni molto interessanti. Ad esempio, in Italia ogni anno consumiamo al bar 43 miliardi di tazzine di caffè e la nostra produzione nazionale di macchine da caffè è pari a 70.000 unità all'anno e esportiamo 2 milioni di sacchi, ognuno da 60 kg, di caffè torrefatto ogni anno. Poi c'è anche una sorta di tabella con immagini per capire come si fa a riconoscere un caffè buono. Allora, io adesso non vi posso stare a descrivere tutti gli accorgimenti che vengono invece indicati su Panorama, però vi dico che un buon caffè espresso, prendo sempre da Panorama, deve avere un colore nocciola, mattigrato, una crema fine che duri a lungo, l'aroma non deve essere né troppo acido né con un retrogusto bruciato. È buona regola mescolarlo sempre, sia che voi utilizziate o non utilizziate lo zucchero o un dolcificante, perché appunto poi sapete che i puristi del caffè preferiscono non sporcare assolutamente il caffè con zucchero o altre sostanze dolcificanti. Però queste sono le indicazioni sommariamente per riconoscere appunto un buon caffè. Magazine 24. Bentornati, bentornati a Magazine 24. Allora, vi ho parlato di caffè, vi ho parlato di numeri relativi al caffè, i numeri che trovate su Panorama. Ci sono altri numeri meno gradevoli, devo dire, che troviamo sull'Espresso, perché meno gradevoli perché sono dedicati alle tasse. Sapete che il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha annunciato l'intenzione di voler varare una riforma fiscale che porti il nostro prelievo a sole 3 aliquote sui redditi e a sole 5 imposte. Naturalmente è un obiettivo, resta da vedere se e quando, se e in che tempi si potrà fare, e l'Espresso coglie l'occasione per affidare a Michele Di Branco e Luca Piana un lungo articolo in cui si fa un po' il check-up del nostro sistema fiscale negli ultimi 10 anni. Si scopre tra l'altro che l'IRPEF, cioè l'imposta di cui ci dobbiamo occupare proprio in questi giorni, perché cominceranno a luglio per le persone fisiche le date dei pagamenti, ecco, l'IRPEF è praticamente raddoppiata dal 95, tra il 95 e il 2009, sia per i dipendenti che per gli autonomi, cioè i versamenti da IRPEF risultano praticamente raddoppiati per entrambe le categorie. Tra l'altro, più per i lavoratori autonomi e le imprese, che sono passati dai 13 milioni di euro del 95 ai 30 milioni del 2009, che per, in proporzione, i dipendenti e i pensionati, che invece erano 65 milioni, sono arrivati a 125 milioni. Quindi percentualmente, diciamo, sono cresciuti di più gli autonomi e le imprese, ma le due grandezze restano naturalmente molto molto distanti. E poi le varie voci di incasso, di gettito che su cui lo Stato può contare, appunto la stessa IRPEF, che ha un complessivo nel 2009 di 166 miliardi, per arrivare a cose molto inferiori come l'imposta sugli alcolici, che vale 1 miliardo. Il lotto e le lotterie, ogni tanto ne parliamo perché i settimanali se ne occupano di questa nostra febbre per il gioco. Il lotto e le lotterie nel 2009 hanno reso allo Stato la bellezza di 10 miliardi. Allora, non so se c'entra con i numeri, quindi con la matematica, ma vi voglio dare una buona notizia. La geometria è innata, Euclide è in tutti noi. L'ho letto sul Venerdì, ieri, distribuito con Repubblica. Caterina Visco segnala che appunto Euclide è dentro di noi, quindi siamo tutti in grado di capire la geometria, anche chi magari ha una vicenda scolastica più tormentata con questa materia, chi ha sempre trovato ostico risolvere i problemi di geometria. Però hanno fatto degli studi dei ricercatori francesi su una popolazione brasiliana assolutamente priva di qualsiasi istruzione matematica, quindi non conoscono né Euclide ma nemmeno i numeri come li conosciamo noi, e effettivamente sono arrivati alla conclusione che siamo in grado di avere alcuni concetti geometrici in modo innato, di gestirli in modo innato. Quindi la conclusione di questi ricercatori è: la geometria è innata e può essere compresa anche da chi non l'ha mai studiata. Non vorrei che questo poi fosse preso come un invito agli studenti per abbandonare i libri. Chiaramente, se poi la si studia, la resa scolastica dovrebbe senz'altro migliorare. Hanno fatto questo esperimento, è molto interessante, perché hanno preso questi ricercatori 22 adulti e 8 bambini della popolazione Munduruku, li hanno coinvolti via via in una serie di conversazioni e di sperimentazioni, verificando che appunto si servivano dei numeri in maniera approssimativa, non avevano termini propri della geometria come, non so, quadrato o triangolo, e non avevano nessun modo di esprimere il concetto di linee parallele. Però hanno visto che sono perfettamente in grado di capire perché appunto le rette parallele, come si insegnano i postulati della geometria, non si incontrano mai, oppure altri di questi postulati cosiddetti di Euclide, e tra l'altro hanno persino, come dire, mostrato risultati migliori quando dalla geometria bidimensionale si passa poi alla sfera. Spiega infatti Caterina Visco: i Munduruku non hanno avuto dubbi nell'affermare che in una sfera le rette parallele si incontrano, mentre nella geometria euclidea questo non avviene mai. Al contrario di partecipanti occidentali a questo stesso test, i quali, probabilmente condizionati dalla conoscenza dei teoremi religiosamente studiati alle elementari e nella scuola dell'obbligo, hanno affermato invece che in una sfera, nemmeno in una sfera, le rette parallele si possono incontrare. Quindi hanno dato anche dei punti a chi aveva una scolarizzazione, questa popolazione, dimostrando che appunto la geometria è dentro di noi. Allora, vi voglio parlare adesso di una cosa un po' particolare che ho visto su TooStyle. Non sapete che guardiamo un po' di tutte le riviste, anche riviste femminili, anche riviste straniere, eccetera. C'è una cosa un po' particolare, uno scherzo se volete, la vanità maschile. Sappiamo che la cosmetica, ad esempio, i prodotti cosmetici per uomini hanno fatto dei grandi passi avanti anche come fatturato per l'aumentata, si dice, vanità maschile. Bene, in realtà un piccolo excursus storico che sta proprio su TooStyle dimostra che la vanità maschile è tutt'altro che aumentata, anzi è sempre esistita. Se ne è occupata uno studioso francese, Jean-Claude Boulogne, che ha scritto proprio una storia della civetteria maschile, un libro che è uscito in Francia, non è ancora uscito in Italia. Questo studioso è uno storico e ha messo un po' in fila i vezzi d'altri tempi. Allora lì scopriamo che, per dire, Francesco Petrarca, proprio lui, quello di Laura, aveva la passione di arricciarsi i capelli con il ferro, si metteva scomodissime scarpe a punta pur di appunto essere alla moda. Oppure che Luigi XIV è stato in realtà il primo grande estimatore dell'attacco 12, nel senso proprio dei centimetri, pare, perché non avesse una statura proprio imponente, però di fatto lui è stato uno di quelli che ha cominciato a introdurre questo uso di calzatura. E poi ancora Enrico VIII, che oltre a quella per le mogli, scrivono appunto da queste pagine di TooStyle, riprendendo da questo volume, Enrico VIII, oltre alla fissazione per le mogli, aveva anche una fissazione per i gioielli, perché ci sono due ritratti in cui, fatti dallo stesso pittore, in cui nel primo il sovrano compare con 29 tra diamanti, perle e rubini, ed è il 1537. Tre anni più tardi questi 29 diamanti, perle o rubini sono diventati 140, è arrivato a mettersene anche sul cappello. Quindi la passione per i gioielli non è affatto una prerogativa femminile, anzi anche noi uomini abbiamo avuto di queste passioni, abbiamo illustri esempi di questo tipo di passioni. E con questo mi fanno dei cenni, Pietro La Corte mi dice che il tempo per noi oggi è concluso, si è finito. Io vi posso già anticipare che domani sarà una domenica molto speciale, sia per Magazine 24 sia per Il Sole 24 Ore. Perché speciale per Magazine 24? Beh, se potete sentirci domani, volentieri lo scoprirete. Per Il Sole 24 Ore, perché avremo delle novità molto grosse, tra cui ovviamente il racconto d'autore che vi daremo domani è La Metamorfosi di Franz Kafka, probabilmente uno dei racconti più celebri di tutta la letteratura mondiale. Buona giornata a tutti.